è così. Per una storia che finisce, un'altra può cominciare. E la vita lo sai anche tu. Stiamo insieme questa sera. Porta in alto se ti va la nostra bandiera. Ci son cascato anch'io come tanti. Credevo in un grande amore come te. Ma gli anni passano, quante cose cambiano. E non sai neanche tu il perché. Restiamo insieme questa sera. Senza di me che farai? Sto cercando di capire dove andrò e dove andrai. Sto cercando di sentire quel calore dentro me e quella voglia di cambiare che in fondo dentro c'è. Dentro c'è. Questa stanza già chiusa da...